Sarà vero che la maggior parte delle spese previste per la parata militare del 2 giugno a Roma erano già state stanziate e impegnate, per cui ben poco si sarebbe risparmiato rinunciando alla cerimonia, come molti avevano chiesto in segno di cordoglio per le vittime del terremoto in Emilia. L'argomento, tuttavia, non tiene conto del fatto che tra ben poco e niente esiste comunque una differenza precisa. E sicuramente sarebbe stato possibile trovare un uso più razionale per i 2 o 3 milioni che si sono spesi. E poi la richiesta di sospensione non era dettata esclusivamente dal desiderio di fare economia in un momento difficile. Sembrava a molti che fosse sommamente inopportuna un'esibizione marziale in un momento in cui di ben altre risorse il paese aveva evidentemente bisogno. È da decenni del resto che ogni 2 giugno si dibatte sull'opportunità di celebrare una ricorrenza civile come la ricorrenza della proclamazione della Repubblica con una sfilata militare, e quella del lutto per il terremoto non era che un capitolo in più in questa annosa diatriba. Non vorrei tornare ancora una volta sull'argomento. Ce ne siamo occupati in questa sede altrove fin troppo spesso. Ma certo, ci vuole una bella dose di assolutezza, diciamo così per non offendere nessuno, per pretendere che il paese si riconosca nel proprio esercito come elemento di identità e unità nazionale, perché questa stringe la motivazione con cui delle pure eccellenti persone come i vari Ciampi e Napolitano hanno sempre sponsorizzato la sfilata lungo i fori imperiali. L'esercito italiano nella sua storia ha scritto parecchie nobili pagine ed è ormai solidamente inserito nella struttura democratica del paese, ma non è mai stato propriamente un'armata di popolo, come testimoniano nonostante tutti i ricordi della guerra al brigantaggio, che tutti sappiamo cosa voleva dire, dei cannoni di Bava Beccaris, delle decimazioni del generale Cadorna, del tutti a casa dell'8 settembre e via dicendo. Quanto all'impiego attuale dei nostri reparti nelle varie missioni di pace a cui prendono parte, si sa che l'opinione pubblica e le forze politiche sono tutt'altro che unanimi nel giudizio da esprimere. Insomma, qualche problemino c'è sempre e non lo si risolve facendo sfilare anche le rappresentanze delle formazioni partigiane e della protezione civile. La sfilata comunque c'è stata, sia pure in forma sobria, perché di questo aggettivo che si sono servite le autorità competenti per sanare la contraddizione tra il loro desiderio di far sfilare comunque le truppe e la necessità di esprimere un qualche rincrescimento per quanto successo tra gli Appennini e il Panaro. Si potrebbe discutere a lungo sul significato da dare all'espressione. Se basti tagliare gli stanziamenti del 20%, fare a meno dei mezzi corazzati dei reparti a cavallo e lasciare negli hangar quelle frecce tricolori per conferire un tono di sobrietà a un evento che comunque è chiaramente superfluo. E se questo significa che negli anni scorsi prevalesse invece un clima di lapidazione e di scialo. Si potrebbe argomentare che se sobrio va inteso come pare nel senso di senza inutili ostentazioni, allora non può assolutamente applicarsi a una parata che senza dubbio è un'ostentazione e sulla cui inutilità speriamo non si dovrebbero o potrebbero avere dubbi. Una parata sobria in effetti è un ossimoro, una contraddizione di termini, come il ghiaccio bollente o la dotta ignoranza, e non può esserci sobrietà in un'inutile e vana esibizione di armi e strumenti di guerra, tanto più vana se vista alla luce di quell'articolo della Costituzione con cui la Repubblica alla guerra appunto rinuncia. Ma tant'è, l'esercito non farà mai a meno delle parate che rappresentano in una struttura per altri versi ossessionata dal mito della riservatezza il momento dell'ostentazione della forza, della giustificazione pubblica della propria ragion d'essere. Il ceto politico non farà mai a meno dell'esercito, cui delega da sempre l'incarico di rappresentare quell'unità, quella solidarietà nazionale che i suoi membri sono ormai notoriamente incapaci di esprimere. Il bizzarro concetto di una parata sobria, nella sua patente contraddittorietà, rappresenta il massimo dei compromessi cui i nostri governanti sono stati capaci di giungere. Prendiamolo per quello che è, consapevoli che di altro con tutta la loro prosopopea non sono capaci e che se dal loro versante la società civile si attende aiuto e sostegno dovrà aspettarlo ancora per un bel pezzo.